Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se invece ci state ascoltando alle 20.45 in replica. Vi ricordo la mail alla quale indirizzare le vostre riflessioni e segnalazioni: un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, che è Guardi o Ladri, lo trovate o attraverso un motore di ricerca oppure sull'home page del Sole 24 Ore online. Dunque, allora, come ricorderete, alcune settimane fa io ho dedicato una puntata al disegno di legge mille proroghe per la parte in cui andava a toccare o a non toccare, a seconda dei punti di vista, a migliorare o a peggiorare, sempre a seconda dei punti di vista, la liberalizzazione del servizio di autonoleggio. E comunque entrava, diciamo così, questo disegno di legge nella concorrenza per la mobilità, possiamo così dire, sulle strade delle nostre città. Dopo quella puntata in cui ho avuto ospite Francesco Artusa, che ha detto la sua dicendo che in buona sostanza venivano avvantaggiati i tassisti e che questo era un prezzo pagato, diciamo così, dal Partito della Libertà a Alemanno, sindaco di Roma, e alla potente lobby dei tassisti romani, ho ricevuto parecchie mail da tassisti e non solo, ho ricevuto parecchi insulti, ho ricevuto anche delle lettere, che è uno sport nazionale in Italia, facevano e fanno della dietrologia. Alcune lettere dicevano: ah, ci fosse stato Santalmassi, sì che avremmo avuto un'informazione libera. Sono qui per smentire queste lettere, sono qui per smentire addirittura i blog che mi hanno, come dire, beneficiato della loro attenzione, blog dei tassisti, e quindi ho ospiti anche dei tassisti, perché l'informazione, per quanto mi riguarda, qui rimane libera. Cambiano i direttori, ma la libertà rimane, ve lo assicuro, almeno per quanto mi riguarda. Allora, ho il piacere quindi di avere con noi un tassista romano che ha scritto una lettera molto educata, lo ringrazio ovviamente per questo. Abbiamo al telefono Mario Rosa. Buongiorno Mario. Sì, buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. E abbiamo collegato nuovamente con noi la pietra dello scandalo, la persona che io avrei beneficiato a scapito dei tassisti, vale a dire Francesco Artusa, presidente di ANITRAV, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Trasporto Viaggiatori. Buongiorno Artusa. Ben trovato a lei, ben trovato agli ascoltatori. Allora Rosa, dica pure quello che crede. Che cosa l'ha convinta e cosa non la convince di questo disegno di legge che beneficerebbe di gran lunga voi tassisti? Prego. Buongiorno, innanzitutto. No, è l'impostazione, secondo me, che diciamo è sbagliata. Non è che il disegno di legge offre dei benefici a noi e ne toglie ai noleggiatori. Qui si parla solamente di ripristinare delle regole, di ripristinare una legge che era stata fatta nel 92. Che regolarizza il nostro settore, il trasporto pubblico non di linea, cioè regolarizza praticamente il trasporto dei taxi e degli NCC. Non è che adesso si vuol peggiorare o si vuol beneficiare un settore a dispetto dell'altro. Ecco, ma quali sono le cose che, per esempio, a suo giudizio dovrebbero essere regolamentate, che invece non sono regolamentate o sono regolamentate male in questo disegno di legge? Insomma, per fare chiarezza, come giustamente dice lei, da dove bisogna partire? Bisogna partire innanzitutto dalla legge, come ribadisco, cioè se vengono emesse delle licenze, Roma ha delle licenze taxi e va bene, ne sono state ulteriori negli ultimi anni, ne sono state rilasciate circa 2500 e va bene. Ci sono dei noleggi romani, diciamo, no? Ci sono 1000+ licenze di noleggi romani. A questi bisogna aggiungere 6000 licenze di noleggi di fuori Roma che tutti i giorni fanno avanti e dietro, senza regole, perché non c'è una regola che stabilizza questo. Cioè, ci sono dei noleggi di Caltanissetta, dei noleggi della Svizzera che vengono a lavorare indisturbatamente a Roma, e questa è una cosa che secondo me dovrebbe finire. C'è una legge che regolarizza questo settore, cioè loro devono partire col loro cliente dalla Svizzera, lo portano a Roma. Se il cliente deve tornare in Svizzera, bene, no che loro si fermano a Roma e aspettano un altro cliente che fa l'aeroporto, un altro cliente che fa come fanno fanno ormai da 4-5 anni questi signori. Ok, Rosa è chiaro, mi pare di poter sintetizzare il suo concetto in questo modo: libertà assoluta di concorrenza sicuramente con i noleggiatori, però è anche corretto che una volta che portano il proprio cliente se ne tornino a casa loro e non che imperversino nella capitale, così come in tutte le altre città grandi dove queste persone operano, sottraendo illegittimamente clienti a noi tassisti. E io ricordo, i tassisti sono i nostri grandi radioascoltatori, quindi figuriamoci se qui qualcuno vuole fare una trasmissione o una puntata contro o pro qualcuno. Questa trasmissione serve per parlare, per discutere. Ed allora, visto che siamo in una fase dialettica, ridiamo la parola ad Artusa. Artusa, allora, è d'accordo su questo con Mario Rosa? Vale a dire che i noleggiatori a volte abusano della propria licenza e vanno ad invadere un campo altrui? Ma guardi, io sono assolutamente d'accordo. Il problema è che magari la legge dicesse quello che vorrebbe il signor Mario Rosa. Il problema è che questa legge va molto in là. Il tassista ha fatto l'esempio, come sono soliti fare, di Caltanissetta o di quello della Svizzera. Il problema è che con questa nuova legge avrà molte difficoltà a entrare in Roma, anche quello di Fiano Romano, anche quello di Fiumicino, anche quello del comune confinante stesso con Roma. E in una società pendolarizzata è dir poco un'idiozia. Però mi consenta di portare per mano l'ascoltatore all'interno di questo film fantasy. In che senso? Lei la volta scorsa parlava del famoso registro che noi dobbiamo conservare in maniera goldara. Io le vorrei invece porre l'accento sul problema della incolumità, nel senso che a volte a noi ci capita, personalmente mi è capitato di prelevare una tre famosa all'aeroporto con il cartello Mr. Smith, ma nemmeno a me avevano comunicato che era anche il nome dell'attrice. Oppure ho passato 2 giorni con un agente del Mossad incaricato della sicurezza del suo ministro. Ora si immagini la scena: mi scusi signor agente del Mossad, lei mi deve dire come si chiama e dove ha intenzione di andare, perché se no mi possono ritirare il ruolo conducente. Ecco, questo qui la interrompo un attimo, Artusa, perché così lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori che magari non hanno ascoltato la puntata che abbiamo dedicato settimane fa. Lei si riferisce a questo famoso registro, libro, chiamiamolo come vogliamo, nel quale, a discapito della privacy, quindi probabilmente violando anche la privacy, per 15 giorni dovete tenere nomi e cognomi e spostamenti delle persone che invitate. E questo è un aspetto sicuramente, a mio modesto avviso, ridicolo, diciamo così, che ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere per il modo con cui il nostro legislatore continua a fare leggi. Però questa è una cosa, diciamo così, a latere del nostro discorso, non è il cuore del nostro discorso. Il cuore del nostro discorso è, e quindi lo domando anche a lei come ho fatto con Rosa, da dove bisognerebbe partire per cercare di rendere un pochettino più umani, cordiali, civili i rapporti fra persone che svolgono un lavoro simile, e soprattutto per non infrangere le regole della concorrenza, perché la concorrenza teoricamente, poi in realtà sappiamo che in Italia così non è, dovrebbe portare ad un abbassamento anche dei prezzi e ad un miglioramento della qualità del servizio. Prego, Artusa. Allora, come posso dire? A parte che credo che il grosso problema di rapporti c'è solo a Roma e a causa di una delle loro associazioni che ha esasperato fino alla morte gli animi. Io le posso dire che francamente non ho grossi problemi con i miei, diciamo, interlocutori tassisti, perché il 90-95% dei noleggiatori svolge la professione in maniera onesta. Quello che dice il tassista è illegale adesso, lo sarà con la nuova legge, e lo è sempre stato. E c'è il divieto già nell'avventura di stazionare sul suolo pubblico dove c'è esercitato. Benissimo, benissimo, Artusa. Allora io la interrompo un attimo, perché a questo punto passiamo nuovamente la parola a Rosa per sentire le sue riflessioni. No, io non è che noi abbiamo esasperato questi rapporti. Ci hanno esasperato a noi, perché ogni volta che andiamo all'aeroporto, per farne un esempio, o a Termini, noi non possiamo essere sempre non possiamo diventare lo scarto, perché loro se ne vanno dentro, si scelgono le corse, si scelgono il turista. A noi ci arriva poi l'ultima speranza. Cioè loro hanno dei box adibiti a questo scopo, diciamo, all'interno dell'aeroporto. Lì il cliente si rivolge a loro, la clientela specifica della quale parla proprio la legge 21-15, 15-92. Sì. Ecco, quindi parla della clientela specifica, ma i clienti devono venire loro, non sono loro che si devono proporre ai clienti, perché così loro si comportano tale e quale gli abusivi che stanno dentro l'aeroporto. Ecco, però io... questa non è una situazione, poi non c'è nessuno che qui esaspera gli animi. Io ho degli amici noleggiatori, ci sono 3.000 tassisti che quando arrivano giù al Mose mettono a parlare con i noleggiatori, non è vero che noi andiamo ecco a Rosa, io però vorrei interrompere un attimo, perché intanto dico ai nostri radioascoltatori che domani continueremo con questo discorso molto appassionante, diciamo così, su quella che io definirei oggi, in un periodo di ristrettezze economiche, di crisi, la definirei una guerra tra poveri, che francamente secondo me non porta beneficio a nessuno. Però una domanda con una risposta in 30 secondi. Però le immagini di una scazzottata purtroppo andata a finire in maniera mortale tra un tassista e un noleggiatore le abbiamo ancora tutti negli occhi a Roma, o sbaglio, Rosa? Qui a Roma abbiamo sotto gli occhi dalla mattina alla sera scazzottate che finiscono in tragedia, scazzottate per il derby, scazzottate per gli stupri, scazzottate per un posto. Siamo a Roma, non è che stiamo in un paese delle piazze. Sì, sì, no, questa è una metropoli, non è avvenuto lì, è successa una litigata. No, è una risposta che mi pare un po' evasiva, perché è chiaro che si litiga per tutto nella vita, però quella lì era una scazzottata che aveva di fondo, come dire, è proprio ciò di cui stiamo parlando, vale a dire una lotta tra poveri per chi si doveva prendere un cliente, Rosa, è così, è. Quello è il risultato di due persone che sono state poco educate, che si sono assolutamente d'accordo con lei, in maniera poco civile, perché poi succede anche che muori al tassista. Assolutamente d'accordo con lei. Io la ringrazio per il suo intervento. Dico ai nostri radioascoltatori, seguiteci domani perché proseguiamo con altri ospiti su questo tema. Grazie in regia Filippo Oreggi, in studio Laura Faggin e Francesco Di Bruno, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.